fanno sentire, no? Ciao, la popolazione ha paura. KK, e cosa costa quello, Pierpa? 550 euro. Minchia. Cazzo, va. Allora, c'ha di suo 40 watt, triplo modulatore, cazzo, va, tre comando operazionale. Cioè, è bello, eh. Eh beh, ma la prestazione fissa è quello, Pierpa. Non si sente bene, non così alto. Proprio bello prepotente, capito? Però ma tu non hai sentito con quel microfono questo? No, prova. No, adesso ce l'ho giù. No, questo è bene, allora non ti preoccupare. Va bene anche questo, Cioè, che l'altro è più prepotente, più si sente più tavolato e piena piena. Essendo fatto diverso, con un diverso criterio anche, e è fatto in un altro modo, più basato. Infatti, non andiamo a vedere il fatto tranquillo. Va bene, ripeto, un po', come dire, volevo fare che sembra che sia il microfono vuoto dentro, lì. Capito. Sincera. Sì, senti, per parlare la radio di Luigi, vale la pena. Così devi uscire il tuo. E c'ho lo stesso microfono, No, io c'ho il CTE adesso, il CTE, io c'ho lo stesso microfono, io ho il CTE e cambio. Non vedo, sono il prox. No, io c'ho l'attacco, anche il CTE non va così. Non è la stessa cosa, non è lo stesso, capito? e poi gliele fa questo Leonardo, gliele fa Franco Cumera, capito? Gliele fa questo Leonardo, capito? E niente, ce la fa, a me non piace come, perché loro a volte là ce l'hanno uno fatto quello, quello ti fanno ascoltare loro, hai capito? Però quando te lo spediscono te lo mandano, non gira così, capito? Non è la stessa cosa. Più o meno quello di Fabrizio, lui gli è costato quasi 600 euro per quel baracchino lì. E a me non piace, dico, ti dico sinceramente, a me, a Palmerio, neanche a lui piace quando la adopera, capito? Non è come i nostri, non girano come girano questi nostri, come quello che c'è Massimiliano, assolutamente no, l'eco non ce l'ha quell'eco più, no, assolutamente no. Devo uscire, riprendo fra due minuti dalla macchina, che sono uscito, riprendo dall'altro. C'è stato un break, e fatelo entrare. Ecco, ecco, sta copiando da Portogallo. Dal Portogallo? Buonasera, pure qui è Portogallo. C'è stato un fuso, operator, operator José, from Lisbon, right? Vuoi dire, ma qua siamo in Italia, la Sardegna, e vai Lucaria che tu parli portogallese. You speak, parlare portoghese? No, parlo italiano io. Questo parlando inglese, no? No, inglese, non solo italiano, ma io ti capisco bene comunque. No, speak English, speak Italian. Io sapere che tu sei italiano, 73 curriere spray o chiappa, è stato un componente di famiglia. Ma parlare inglese. Habla español. Más o menos. Non c'entra, ci sono tanti che parlano spagnolo, parlano l'inglese, parlano il tedesco, parlano un po' di tutto, tante le lingue, non c'entra. Ma la fortuna sta arrivando tu. Ma io non ci arrivo, che sono questo qui. No, in realtà io sto facendo con due vatti, sono chiuso, ho tutte le vatti chiuse io di questa palazza. Attention, my friend, if you could be not jumping in Italy, going. Station 165, maximum member, Oscar. Go ahead, my friend, you're there. Okay. Okay, my friend, this is José, station user from Portugal, all right? I don't know where you will. What is your position? My position is in Lisbon. Okay. My compliments for to you and to the other friend is in the frequency. All right. To hear the for the first time. Another lingo, another voice from another country, okay? Okay, my friend, U59, on Sardinia, Italy, not Sardinia, Italy, my city is Sardinia, give me okay, my friend. Your sign is 9952, all right? 952. Okay, my friend. Many compliments for your station. Your radio is very strong, my friend. Okay. tutti ormai a guardarmi quei ragazzi che cantano, che questo tanto non capisco niente. Fale, mi guardo pure televisione. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Rui. Okay, my friend from Italy. You are from Division 4, that's correct? My friend Rocco, no propagation. Propagation is very slow, my friend. Rocco, excuse me. I'm asking. Okay, my friend, do you copy now? I'm asking if you're from Division 4. Division 4, do you copy? No copy. The propagation is very slow, my friend. No copy. Incomprehensible, my friend. Luca. Okay, Italy. Ebbe Natalino, buonasera. Sentito male. Stavo sentendo. Ok. Sì. Oh, non lo copiamo, se no non mi avvieni. Cappa, chi chiama Franchetto? È dove mi prima, ma non ci sale là? No, sto aspettando gente, Mario, te l'ho detto. Ah, è cappa cappa, d'accordo, ciao. Ciao Mario, ciao. Ok, io sono rientrato adesso, gatta, via. Sono a pezzi, sono. Mi fa male sempre la schiena. Cappa. E sei andato a quella riunione? Sì, ma vabbè dai, già te lo dirò per il piccato. Cappa. Mi fa male come si fa nei dieci. Cappa. lo sai parlare bene anche. Sì, me la capicchio. Caparocci. Quello da Portogallo è? Che arrivi in Sainocchi, bubu? No. In Brasile ho fatto, Inghilterra, ne ho fatto, Spagna, quanto ne vuoi, in estate si fai a beba, ma non qui, no, in banda laterale si fai a beba. No, ma è sul 45? No, più su, ancora più su in banda laterale, nel canale di chiamata internazionale. Tu chiami, no, loro ti rispondono e tu gli dici di passare su un altro canale perché quello si chiama solo. E boh, e ti fai di ex. Ti faccio vedere le cartoline, non sto scherzando. Ma le bande laterali quali sono, Natale? USB, qua si va in USB, Uniform, Santiago Bravo. USB, ma io ce l'ho, sì. Il nostro, che apparecchio è quello? Ala 49, ala 87. Come quello di... come cavolo si chiama? Di Milano? È positivo. Sì, che ce ne ha quello. E non te lo ricordi, forse che li abbiamo provate anche. Cappa. Ehi. Cavagala! Quasi. Cavagala! Ho sentito la radio Bulldozer, Cavagala, Bulldozer in movimento, cappa! Ah, Bulldozer! Ciao Facchetto, ciao Tartariu! Ciao carissimo Bulldozer! Sentito la Portogallo poco fa, che parlava solo portoghese o inglese, cappa! No, ci ho acceso adesso, Natali, come faccio a sentirlo? Ho acceso adesso. Ciao tu, io a Capomolo, dove siete? Cavagala! Siamo qua, salendo, siamo qua in via attacca, bruciate. Canta, c'è l'ora, bruciate. Thank you. Gianni K2. Avanti Gianni K2. Avanti Natalie. E capa, ciao Gianni, ben sentito, ben entrato, buonasera capa. Ok, io sono entrato poco fa, sono dovuto salire oggi a pigliarmi un corno di tachipirina perché sono raffreddato, c'è ancora un palino mio, questa ancora, un filetto. E perché tu dici c'è tutte le temperie, esci per fare servizio e ti becca per quello, ti dura di più pure perché non ti stai a letto e giustamente ti dura di più, già lo so che è così già. Ok, speriamo che mi passi questa roba, no, ma io sto temendo la notte che mi viene questa tosse e poi mi fa male il petto, guarda una cosa, sono dovuto muovermi perché mio figlio non c'era e sono dovuto uscire io, se no sarei da tu, non sono più uscito stasera, che sono arrivati di questi libri, non so per cosa, non me l'hai neanche chiarita che libri hanno ordinato, se è roba musicale o che cosa sia. E mi serviva la tarifa perché ne ho consumate, ci ho pigliato due arancioni di questa cosa, il momento che fa l'effetto, se c'è qui non può iniziare, stasera che l'ho qui. Poi è venuto anche il sonno e ho dovuto chiudere. Ma da quanto sono quelle tachipirine o Gianni? Da mille in quanto si sente. Ok. Certo. È una brutta pesa, una brutta compagnia è questo cavolo di... già lo so. E a noi siccome riusciamo, non siamo mai fermi, ci frega per quello, perché usiamo che sia caldo, che sia freddo, usiamo sempre e ci becca per quel motivo. Questo è Mario Marcel. Se vuole entrare entri e se non faccia come crede. Ai, che bella. Questo è Bombucu. Ai, caro caro. Ciao, buon buco. Bravo. Ma sono appena entrato. Perché ce lo sta facendo morendo lui? Perché? Che non vuol venire avanti. E io lo so che faccio la bravo. Sempre fatto la bravo io. Oh, yeah. Gianni. Dimmi la calina. Poco fa, cosa ti posso dire? Non è solamente al palo collegato al Portogallo qua, è entrato sul 5, stavamo parlando sul 5, però parlava o portoghese o inglese e l'ho dovuto collegare in inglese, gatta, ma arrivava bene in AM. Io ho parlato sul 5 invece. Stai zitto, Bombù. Mi piace il parchetto qua. Vulcano se ne è fuggito perché non capiva nulla. Io te la voglio. Maniaco. Tu a me non mi appoggi niente. Tanto già lo sai che quando sono vicino a te cammino con le spalle al muro. Non si sa mai che lo pensi per quel titolo. Sarebbe morto. Tu c'è nel canale, Io parchetto, Gianni Capri 2, poi ci dovrebbe essere Bulldozer in ascolto insieme all'amico Vera 1 e Bobolino K. Carino, riprenditi, la mi sta salendo nervoso. Vai. Chi è Mario? Ah, perché stai in corte in galloni, sì. Per carità, se si ne può fino a punto di Bagogna, lo mando. L'unica cosa è quella che ce ne facciamo un punto di vergogna. Io me ne avrei fatto la vergogna di mandare queste cose in onda, la verità si dica. Quale peggio avrei fatto io, quando suo? Per carità, guarda. Infatti, la gente non sa perché si allontana, perché per questo motivo, perché o parlano male, o perché... A poi c'è andata in alto, sembra che siamo tornati da Rito. Sì, infatti, quando vedono che la cosa è calma, allora cominciano a rompere le scatole. E allora? Non sono capace di entrare educatamente, andarsene educatamente. No, a rompere le scatole si mettono, buh. Sì, perché non hanno argomenti, capito? Sono guasti. Perché questo si tratta di essere guasti. Se uno è stato normale non è per fare queste cose. E infatti, adesso ci vuole il prete, che ci canti l'alleluia. E chi su Iarovardia, quello che si dia la messa, un po' Fabio Chicenco, gata, e sembrava il Papa, ma guarda, lo faceva così bene, la messa cantata, Vardia. Posso immaginare? E beh, buon poco. Oh, negativo, negativo. Faccia, fratelli e sorelle, esci a Castrugoso Cattedrale, no, proprio. Ah, ma me ne veramente usciva. Capparoce. Dove si punì a cantare alleluia, Guido? Ma guarda, mi riusciva veramente bene. Cappa. No, già lo fa bene già. Cavarocero. Carissimo. Sono qui, carissimo. Ah, mi ha dato l'impressione che era Mario. Sarà che ci sarà. No. Sarebbe entrato, Mario non è fare in queste cose. Perché sì, sono fa 5 minuti e poi lo dici, è un conto, ma questo sta continuando, quindi non... Infatti, capate oggi. Lo puoi fare per fare ridere, ma poi cazzo la smetti, gioca bello quando dura poco, capito? Infatti, gioca bello quando dura poco, ma... Capo, lasciamolo giocare su pezzino, dai. No, qua. Hai cavocato. Ah, ciao. Tu sei che mi cavi i nervi. Poi è molto da sentire. Se tu mettevi un moto, faccio le altre, caro. Maurizio, di la mezza. Vabbè, aspetta, mi tocca te la attaccare il vecchio. Se quello che stava fatto ti faceva la mezza, e magari scappa e quando lo metti a posto quell'ecco cata chi ce l'ha di servire la mesa ovvero Grazie. sicuro. Questo telefono che ti ha colato il microfono. Non ci ha fatto finire la messa. Allora io mi volevo chiamare la messa, anche come la mi si può come ne educare. Adesso va bene, sì. Come va la radio adesso? Va bene. E lei vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso più chiara. Mi ti prendi il microfono. Va bene. Capocci. Attento compagno, vamo da Versailles, vamo scusciando la Italia, non de Sardina che va chiamando, l'operatore Lima Uniform Charlie Alpha, siete super cordializa, adelante, vamo da Versailles. Ok mio hermano, 7351, otro grito por favor, lo señalito, señale de uno, la radio de tre, ok? Faccio la chiamata in inglese e mi rispondono. Perché lì ci fanno la laterale, no? ti prende il TDX spettacolare. Ti faccio vedere i cartolini qualche giorno, quello che ho fatto l'estate scorsa. Gappa, invece è una cosa bella, Ehi, quelli che mi hanno risposto, perché poi ti faccio vedere tutti i collegamenti che ho fatto, che c'è lì nel logo, qua, ma ti viene più su una pagina. Gappa, bello, Perché mi hanno risposto in buchi, no? Confronto a quelli che ho fatto, molti non mi chiedevo neanche di queste, capito là. Proprio quelle che me la chiedevano, allora gliela spedivo e mi arrivava la loro. Capito? Gappa di Roggero. È bello già. E io le mie me le sono fatte col computer, capito? Così almeno non devo comprare nulla. Poi c'è un po' di cartoline della Sardegna, gli mandavo quelle lì, più la questione personale che avevo fatto io da col computer. E lì nello spero bene, non credo bene se ne mancano contenti. Non siamo contenti. È così. No, ma è una cosa bella comunque, cioè parlare, ti immaginate, da così lontano, ragazzi, poi loro ti mandano la cartolina, tu ti mandi la tua, è una cosa bella, Io lo so, Sì, io ho fatto anche come SWL, ho fatto un paio di contest, cioè di plumi qua, proprio dell'Arimi con i radiamatturi che adesso qua mi sono occupato a bene. Sono arrivato il primo nono in tutta Italia e l'altro in tutta Italia quarto, figura. Bello, Cioè di plumi qua, Poi sono iscritto anche a Giri, un gruppo internazionale, e c'ho il diploma anche di quello. Gappa, è una cosa bella veramente. Sì, sono cose belle. Che bene. Benissimo. Sono qui carissimo. A te. Ciao bene, Demi. Natali. No, mi so, quindi sono uscito. Attento, hai davanti, l'amico qui, Sgucci, è uscito, è andato per il brasiliano. Chi si chiama Walter Demi? E chi? Quello che ha chiamato adesso. Ah, non mi dite il mio, c'è? Antonio adesso si chiama. Ah, Antonio, vabbè. Si fa di un relax con un di poco io, gatta. Arrivo come te la mando a turbo, se metto con un pezzo di vino. E c'è la tua idea, Natale. Ma non sto scherzando. Arrivato un di poco, avevo invertita per la banda di su. Però potete parlare solo sulla banda di su, per non aver stazionato. Cazzo, ma arrivi una roba. Gappa. Era un direzionale, non era un orizzontale quello lì, perché l'avevo fatto con un bezzita. Gappa. E poi c'è sopra un trabattello e ho un pezzo di dubbio. Per dire, il VX con chi? Se ne era fatto quello. E tu, sentire. Cazzo, io mi ero nato guai. Infatti, mi ero nato guai. Più forte pure arrivavo dalla Mantova, perché molte volte viene meglio col tipolo perché ascolti meglio, no? È più silenzioso e c'è meno QRM, per fare gli ex tipolo o la direttiva sono l'ideale, capito? Infatti, gappa. Infatti non so se adesso me la metto una bella direttiva, lei che vivo il motore, mamma mia, tocca girare, fare. Non mangi un cigano. Infatti a voi pian pianino passa la gara di va. È una cosa vera che è vera, ma solo ne passa la gara. Chi ci vuole anche tempo, primo non ha tempo. Di notte per esempio io non ne ho mai fatta, ci fanno i più vedi ex, ci fanno di notte, perché puoi collegare paesi stranieri, ma più lontani, l'America la colleghi di notte, per esempio. Di notte, perché in America è di giorno, quando qua è notte. Infatti. Ho collegato il Brasile, cosa mi hanno collegato? Brasile in Sud America, sì. Brasile, cosa non ci collegate? Tutti i mondo. Penso le Svalbard, vicino alla Vasca. Sì, capita. È bello quel capita. Ma tu ci pensi che una gente del genere arriva a tutto il mondo, capito? Eia, non prendi posso venire a Questelle, noi a dirci di cazzate. No, ma ci credo, ma lì ci mancherebbe altro. Questo ho confermato. Da voi in Italia non se ne va vita. Cioè può essere anche dalla Sicilia. Ho parlato con Roma in diretta, con Torino, Milano. Cosa cazzo? Firenze, quelle parti lì, in Toscana lo stesso arrivi bene. Kappa, no, già è bello, che aspetta, magari arrivarci io quest'estate così a fare un DX così bello, sarebbe una cosa bella. Sì, che ci arrivi, perché non ci arrivi, quando si apre la propagazione ci arrivi, è come se ci arrivi, poi tu, non è che ci male, ci stai facendo bene, che hai sentito quella della Spagna, ma senti? Kappa. Allora, basta imparare un po' a parlare un po' di spagnolo, così, un po' di inglese. Se ti capisce parli anche in italiano. Un brasiliano addirittura voleva che io parlassi in italiano, perché io lo stavo parlando nella lingua sua, e lui siccome voleva imparare bene in italiano, mi ha detto parla in italiano, e così almeno ti rimpari. Hai compreso. Voleva che tu facessi il professore. E io parlavo l'italiano piano, giustamente, perché se parlo come sto parlando adesso non capiva nulla. Ah, ecco, devo ricevere piano. Ehi, va. Comunque, bravissimo, è un radioamatore quello, è la divisa. Lui scendeva il 27 a farsi anche se proibito, non per loro, scendeva il 27 a farsi gli ex, me l'ha fatto capire che era un radioamatore, giustamente non mi ha dato il nome nativo, ma io ho collegato anche radioamatori italiani qua il 27 sulla banda di su, non vedevano che magari non c'era propagazione nelle loro parti e scendevano a farsi gli ex qua, capito? Cappa che positivo, perché non possono scendere loro? Già possono scendere, ma non devono dare nominativo, nulla, capito? Perché loro hanno il nominativo tutti quanti dal ministero e loro possono parlare in altre frequenze, non qua. E infatti io il presidente Lincoln non me l'ho preso perché questi due radioamatori stavano parlando con un presidente Lincoln tutti e due, infatti poi li ho seguiti che se ne sono andati 10 mesi e stavano parlando con quello, capito? Ed era un semplice baracchino, già te lo faccio vedere il presidente Lincoln al quale. E infatti me l'ho preso quel presidente perché mi serviva per farmi gli ex con loro, per avere un apparecchio insomma così. Faccio anche questo, con questo pure già ho visto che mi sento. Lo devo provare solo in banda laterale a vedere se va bene. Prendere che l'ho già provato, questo ancora no. Kappa. Ci sarà l'opportunità di provarlo, anche quello in banda laterale. Per vedere se è bello centrato, capito? Kappa. Posso attaccare anche il microfono a tavolo qua, questo è il microfono normale, no? Quello che ho comprato a Torino, quello della GPC, gli ho fatto le connessioni e gli ho attaccato questo. Penso che parlare con uno. Marce, beh, Mario Marce. Allora? Allora, sono qui, ho collegato con Porto Gallo poco fa. Guarda che ti ho sentito quando stavo parlando, che quindi gli hai dato più corda. La gente non intende più. Ah, sì, no, c'è di due euro a farmi la caffè, non avevo voluto. Caffè grappa. Adesso sono in tacquagliato perché trovavo loro, invece non li ho trovati. Ma già c'erano loro. Infatti è toccato a voi. Dove è stato Mario? E invece io gli ho detto, mica c'erano dei rimpianti. Ma glielo ho detto anche io, ho fatto tutto il due in mano e non c'erano. Perché dice che posteggio lì non ce n'era e stavano girando sempre in tondo, però posteggio lì non ce n'era, anche per la partita lì di più era circa tutto pieno di macchine, non era un buco a punizio. Vabbè, io sto cazzando, se quanto non ero sicuro, e in calor chiesani, a sapere dove mi sono andato, lascio pure entrare da là. Ce la pagava. Allora, per la prossima. Perché voi ci siete stati fortunati nel senso che non c'erano parcheggi, perché loro si fermano lì sempre, capito? Io ho sempre questo mal di schiena, maledizione. Bellissima, cosa volevo dire? Ebbene, a me la cavo con l'inglese, ma... Ecco, va bene già, puoi stare in giro dal mondo. Benedetto, ma... E già va bene, puoi fare il giro del mondo. Beh, l'inglese è la lingua internazionale, tutti parlano l'inglese, capite? Quindi se uno parla l'inglese è avvantaggiato confronto agli altri che non lo parlano, capite? Per esempio quel portoghese parlava solo o portoghese o inglese, spagnolo non ne sapeva, gliel'abbiamo anche detto di parlare spagnolo e lui ha detto quindi no. Perché il portoghese è diverso dallo spagnolo, gli veniva male a questo qui. Vengo, vengo! Mio nasce. Sei in casa? Sì, ed è così. No, se sei in inglese vai alla grande, eh. Mi prendi il parcheggio. Cappa, c'è stato un brecco, avanti il brecco. Avanti il brecco. E di fuori era, spagnolo doveva essere. E allora non ci interessa niente. Oh, yeah. Beh, io mi... abbassare la trasmissione, che tra 10 minuti sono a casa, gli ospiti, e ce la riascoltiamo tutte al migliore, o a più tardi se coincide. Ok, dai, io vi saluto che stanno già per arrivare. D'accordo? D'accordo anch'io, carissimo. D'accordo, d'accordo. Buon preventivo, buona carica, buon divertimento. E tanto ecco che calde. E KK, dai, se coincide a più tardi, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, fate le prossime. Siccome non sapevo qual era dei due, più o meno il punto di ritrovo, ho pigliato e me ne sono andato, perché poi, siccome c'era traffico, c'erano tutti i parcheggi pieni, e niente, ho fatto 4 volte il giro, ma no, non li ho trovati, così che nulla, ma se vedete me ne sono andato. E anche loro se ne sono andati perché hanno detto che andano benissimo. Avanti questo bel fischio che sembra quasi uno signoro. E chi tu sei a portare, Mario? Ah, è quello signoro. E io sono a favo. E KK. E mi sa che tu stavate dormendo molto poco. Era nata lì. E boh. Si è una decina. E infatti. Ma questa è roba di freddura sicuramente. Kappa. Sicuramente sarà quello che è uscito caldo. E magari bussando in macchina ma te si è da fottito. No, ma mi la più chiara una decina, ma ce l'avevo già. poi l'acqua non ti è venuta stamane, no? No, perché stamane c'era un po' freddino, magari si è uscito a caldo da casa e niente, mi ha fregato come si è uscito al freddo. Ora. Ok, senti.